con Federico Vignali della rivista Schermaglie per presentare l'evento Appunti ritrovati della Buona Scuola, che inaugura il cineforum tematico al Parco della Cellulosa a Roma, giovedì 21 febbraio 2019. Federico, ben trovato. Ciao Federico, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Raccontaci un po'. Allora, grazie intanto per lo spazio. Dunque, questa iniziativa parte in risposta all'ennesima chiusura di un cinema in zona, ormai per 20 mesi che ha chiuso il Galaxy a Prima Valle, ormai tutto il quadrante è rimasto privo, insomma, gli spazi per il cinema, non solo quartieri popolari, ma anche quelli più centrali come Balduina, Ottavia, sono praticamente senza cinema. E noi, riprendendo l'iniziativa del Comitato Ripriamo il Galaxy, che nei mesi passati si è mosso molto per riportare il cinema in quelle zone, partiamo con questa iniziativa, riprendendo quel discorso di un cinema itinerante che andasse incontro alla voglia delle persone e della cittadinanza di avere un cinema. Lo facciamo allo spazio del Parco della Cellulosa, a casa Dotti, e lo facciamo con un film tematico, che è Chiedo asilo di Marco Ferreri. Ci teniamo molto a questo film, soprattutto per cercare di parlare un tema di quello come quello della scuola, che è molto importante. Sappiamo che il governo praticamente non ha mai affrontato il tema della scuola da quando si è insediato al potere, cioè si è parlato della scuola soltanto intorno a polemiche sterili come quella della mensa per i bambini, e non si è affrontato il tema di come il settore si è esposto a marginalità, emergenza, è un'emergenza continua. Il film di Ferreri, come sappiamo, è molto importante perché, pur essendo un film che parla della scuola negli anni 70, è attualissimo perché lo vedo adesso, sembra quasi un'esperienza nuova, perché pone il confronto su temi come i ruoli, la crescita, l'esperienza, che sono fondamentali in quell'ambito, mentre oggi siamo ridotti a parlare soltanto di marginalità, dei pericoli, delle località fatiscenti, degli edifici inaccessibili. Il film partirà alle 21 a Via della Cellulosa 172 in collaborazione con una serie di realtà di zona. Interverranno Fabrizio Grosi di Schermaglie, Stefano Masera di Diari di Cineclub, che apriranno il dibattito. Senti Federico, è il primo appuntamento che inaugura questo cineforum al Parco della Cellulosa. Ecco, già state sviluppando una programmazione? Sì, allora, come ci hai detto tu, il giovedì successivo, il 28, programmeremo Il figlio di Darden, che non è direttamente ambientato nel discorso della scuola, ma comunque del recupero di ragazzi adolescenti in condizioni di marginalità o problematiche. Stiamo lavorando con altre realtà di zona, e questo che ci stimola molto, per portare queste proiezioni alla Casa del Popolo Giuseppe d'Anas, nelle biblioteche e in tutti gli spazi che, insomma, si stanno dando la mano in questo percorso. Quindi sarà un giorno fisso a settimana, il giovedì, per ora? Per ora sì, saranno 2 giovedì al mese, e al più presto, grazie insomma per lo spazio, daremo la programmazione completa. Ok, quindi magari ci teniamo aggiornati e ci lasci i riferimenti internet per saperne di più? Sì, potete andare per chi vuole sul sito schermaglie.it o per chi usa Facebook, sul Parco della Cellulosa. Basta mettere in motore di ricerca queste parole e viene subito in contatto con questo spazio, o anche sempre Schermaglie, o Diari di Cinecreta. Ti ricordi l'organizzazione della giornata, gli orari? Certo, allora il film comincerà alle 21 e sarà introdotto in una breve presentazione, come ho detto, di Stefano e Fabrizio. E per chi riesce a venire prima, praticamente l'ingresso è gratuito e ci sarà un benvenuto con un piccolo aperitivo, un piccolo rinfresco. E allora ricordiamo l'appuntamento con Appunti ritrovati della Buona Scuola che inaugura il cineforum tematico al Parco della Cellulosa a Roma, giovedì 21 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Federico Vignali della rivista Schermaglie che è coinvolto direttamente nell'evento. Federico, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, grazie ancora, a presto, ciao ciao.